Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buongiorno e buona festa a tutti, buon 8 dicembre. Oggi, appunto, un giorno di festa, parliamo di un argomento un po' marginale rispetto alla cronaca di tutti i giorni, ma importante soprattutto per noi, soprattutto per molte famiglie. Sul Sole del lunedì oggi si dà conto di un'indagine dell'Istat, si commenta un'indagine dell'Istat sulla vita quotidiana di bambini e ragazzi, soprattutto come sta cambiando la vita quotidiana, quindi il rapporto con i giocattoli innanzitutto, per i più piccoli, il rapporto con i genitori, con i nonni, il rapporto con la scuola e con il tempo libero, anche con i soldi. Ne parliamo con Francesca Barbiero, che ha curato per il Sole 24 Ore questa inchiesta. Buongiorno, buongiorno Francesca. Direttore. E con Silvia Vegetti Finzi. Buongiorno, signora Vegetti Finzi. Buongiorno a tutti voi. Silvia Vegetti Finzi è nonna di due nipotini, come si presenta, ha insegnato psicologia dinamica all'Università di Pavia, è titolare di numerose rubriche dedicate appunto al mondo femminile e familiare ed è autrice di un libro che è in questi giorni in vendita, Nuovi nonni per nuovi nipoti, la gioia di un incontro, ne parleremo tra poco. Allora, Francesca Barbiero, la vita quotidiana dei bambini è cambiata molto in questi ultimi anni? I bambini di oggi sono come i bambini di ieri, ci spiega l'Istat in questa ricerca condotta su un campione molto significativo di famiglie. Chiediamoci che cosa stanno facendo oggi questi bambini, che è un giorno di festa. Ecco, oggi i bambini italiani giocano con la mamma e il papà, questo è quello che viene dall'Istat. Oggi è una giornata di festa, gran parte dei bambini italiani trascorreranno la giornata in compagnia della mamma e del papà e in compagnia dei nonni, prevalentemente in casa e prevalentemente, soprattutto nella fascia di età prescolare, giocando ai vecchi giochi. Quali sono questi vecchi giochi? Le automobiline, principalmente le automobiline per i bambini, le bambole per le femminucce e poi successivamente, nella fascia d'età scolare, dai 7 ai 10 anni, i bambini andranno al parco. Quindi lo spaccato, la fotografia dell'Italia, dell'Istat, almeno fino ai 10 anni, è molto simile a quella che potevamo avere 10 anni fa. Quindi non è molto cambiato il sistema di giocare dei bambini, i bambini non sono cambiati, però un po' più avanti, forse, non dico invecchiano, ma diventano maturi. C'è più presto. C'è sicuramente una precocità, nel senso che poi verifichiamo nella vita di tutti i giorni. I nuovi bambini sono come i vecchi bambini e giocano assolutamente alle stesse cose, hanno gli stessi giocattoli, hanno le automobiline, hanno le bambole, hanno il disegno, hanno le favole, hanno incollare, giocare, fare i puzzle. Quello che cambia è che dai 10 anni in poi si diventa adulti in qualche modo, quindi c'è una precocità nell'abbandono dei giochi tradizionali. C'è una presenza di internet e quindi dei videogiochi da una parte e di internet molto fagocitante del tempo e dello spazio dei ragazzini, si cresce prima, si cresce più in fretta, quindi i bambini sono sempre bambini, forse gli adolescenti, ecco, quello che oggi viene considerato adolescente sempre prima, cioè intorno agli 11-12 anni, a 11-12 anni sono già dei piccoli adulti, degli adulti in miniatura con le chiavi di casa, la paghetta, internet sempre acceso, che guardano meno la televisione addirittura rispetto alle precedenti generazioni perché stanno di più davanti al computer e anche i genitori li considerano così, dando loro degli spazi di autonomia che negli anni precedenti non avevano. Bambini sempre uguali, ma bambini per un periodo più breve, ecco, questo sicuramente è la fotografia dei bambini di oggi. Ecco, infatti il 40% dei minori tra i 6 e i 17 anni dispone delle chiavi di casa, forse più verso l'età dei 14-15 anni, tentano di essere autonomi o forse sono le famiglie che li fanno diventare autonomi. Allora, signora Vegetti Finzi, i bambini sono sempre bambini, giocano con le stesse cose di prima. Forse sta cambiando il rapporto dei bambini con la famiglia. Già questo libro, Nuovi nonni per nuovi nipoti, ci dice che ci sono più nonni di prima che hanno relazioni con i bambini, anche perché la famiglia attuale spesso è una famiglia con qualche problema, talvolta in crisi, e quindi i nonni intervengono, ci sono nonni più giovani che stanno più con i bambini. Signora Vegetti Finzi. Guardi, sono d'accordo su questo spaccato, che se confrontiamo 10 anni fa sicuramente dobbiamo dire i bambini sono sempre gli stessi, però se confrontiamo i bambini attuali con i loro genitori nati più o meno intorno agli anni 70 vediamo invece una grande differenza, perché è stato detto questi bambini alla festa giocano in casa con i genitori e i nonni, sicuramente i nonni hanno assunto una parte centrale che prima non avevano, però mancano i coetanei, direi una volta c'erano anche altri bambini, i vicini di casa, i compagni di cortile, quelli dell'oratorio, se c'era il sole scendevano in strada, nei campetti, ora sono un po' stati sequestrati dalla famiglia, quindi i bambini direi molto racchiusi nel privato e per fortuna ci sono i nonni perché almeno la famiglia si articola un po', se no sarebbero veramente genitori e figli. Anche perché prevale nella famiglia attuale il figlio unico, quindi anche all'interno della famiglia il bambino non ha relazioni con coetanei o quasi coetanei come potevano essere i fratelli e le sorelle, e quindi questa vita di relazione viene portata molto più sulla scuola, sull'asilo, sull'esterno. In famiglia la relazione è appunto con i nonni, con un passaggio generazionale poi di 50 o 60 anni. Certo, quindi sono iperprotetti, cioè quello che manca è la possibilità di mettersi alla prova, cioè di rischiare, di tentare magari di calpestare le sangue, di uscire con la neve bagnandosi dalla testa ai piedi, facendo le palle di neve, quello che i bambini hanno sempre fatto, che erano le cose che magari li facevano sgridare, però era importante perché mettevano alla prova il loro corpo, la loro capacità di vivere nel gruppo dei pari, che sicuramente non è protettivo come gli adulti. Ora questo non si fa più, sono bambini che crescono in una gabbia, direi in una gabbia dorata, ma pur sempre in una gabbia. È vero che hanno tanti giocattoli, troppi direi, perché da qualche anno fa una ricerca di mercato aveva visto che i bambini a Natale chiedono in media 4 regali, sempre in media ne ricevono 11, quindi 7 di troppo, quindi troppe cose, troppa merce, troppi regali e invece ben poco contatto con i coetanei e con la natura. Per fortuna che quelli un po' più grandi vengono portati al parco, ma più che il parco sarebbe importante portarli veramente nella natura un po' meno addomesticata, quindi portarli a fare una gita nel bosco, a salire in montagna, ad andare in barca sul lago. Anche qui il contatto con la natura è troppo protetto, troppo controllato. Sono bambini che vivono sempre controllati a vista e poi improvvisamente gli si dichiara adulti, ma c'è un salto, manca il processo di maturazione, non basta dare la chiave a un bambino di 11 anni per dichiararlo adulto, in realtà si fa così perché entrambi i genitori lavorano e la babysitter costa molto cara, i nonni magari gli si abusa un po' quando i bambini sono piccoli, ma appena si può gli si libera da questo incarico ed ecco questi bambini adultizzati troppo precocemente a mio avviso. Anche perché i nonni che curano i bambini hanno forse la tendenza, come si può dire, a viziarli un po' di più rispetto ai genitori, a tenerseli un po' cari, un po' vicini, a dargli appunto, come lei giustamente diceva, tanti doni, tanti regali, a farli sentire protetti. Ecco, questo clima di protezione è qualcosa che poi forse può provocare nella psicologia del bambino anche un contrasto e allora una ricerca, quando sarà un po' più adulto, di una fuga verso l'esterno? Sicuramente, io direi che non il compito di educare i figli, cioè di dare loro le norme e tutto il sistema di premi e di punizioni non dovrebbe aspettare ai nonni, questo è un compito dei genitori e invece in realtà in questo momento i nonni fanno anche la parte dei genitori che non compete loro perché non hanno più l'età, perché non sono mentalmente più preparati ad avere magari degli scontri e i nonni sono fatti per stare bene insieme, tutti mi hanno detto per noi è un momento di gioia, un momento di piacere, di allegria e così deve essere, però se il genitore viene meno ecco che manca tutta la parte normativa che viene troppo delegata alla scuola, gli insegnanti si lamentano perché sul vuoto di una famiglia regolativa, di una famiglia che sa anche dire no, spetta loro tutto il carico diciamo in fondo più pesante, perché tante volte il bambino detesta la scuola perché è la prima volta che vi trova confrontato con un sistema di regole, con quei no che, di cui in realtà ha molto bisogno, perché i no non sono soltanto un limite, ma sono anche un contenimento dell'esuberanza infantile. Ecco, Francesca Barbiero, cosa dice la relazione Istat sul fronte delle relazioni dei rapporti sociali? Allora, riguardo l'Istat in controtendenza rispetto a quello che diceva Silvia Vegetti Finzi, in realtà sancisce un aumento delle relazioni sociali. Sarà perché in qualche modo l'età scolare è molto precocizzata rispetto alle precedenti generazioni, nel senso che a 3 anni vanno a scuola, non si chiama nemmeno più asilo, si chiama scuola, vanno a scuola e hanno un gruppo di coetanei e un gruppo di relazioni anche pomeridiane molto strutturato. Sicuramente il tempo è molto più strutturato che in passato e di conseguenza da quello che le famiglie raccontano all'Istat, i loro bambini hanno tanti amici sicuramente non per rotolarsi nel fango come sicuramente farebbe loro bene, ma per fare i lavoretti natalizi a scuola e per andare a cerare o a fare la ginnastica artistica il pomeriggio, però il racconto, la fotografia che viene fuori è di bambini circondati da altri bambini. Tra l'altro, in questo è assolutamente in linea su quello che diceva prima la Vegetti Finzi, sono sicuramente genitori più presenti. Sicuramente ha parlato di sequestro la dottoressa, che è un verbo molto forte, ma che in qualche modo ci spiega che tipo di genitori siamo. Ecco, grazie Francesca. Ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico, torniamo tra pochi minuti. Dietro la notizia. Buongiorno, bentornati a Dietro la Notizia. Stiamo parlando di bambini, di giochi, di famiglie, di nonni. Lo facciamo con Francesca Barbiero del Sole 24 Ore, che ha curato una indagine riportando appunto dei dati dell'Istat sul Sole 24 Ore di oggi. Lo facciamo con Silvia Vegetti Finzi, autrice del libro Nuovi Nonni per Nuovi Nipoti, che ci aiuta a capire questo multiforme universo dell'età infantile, dell'età evolutiva. Ecco, dicevamo con Francesca Barbiero che i bambini, almeno a quanto dichiarano all'Istat, hanno molte relazioni, hanno molti amici. Forse rispetto al passato è una relazione appunto scolastica da una parte, e anche con nuove formule: si ritrovano in pizzeria, si trovano appunto in discoteca, forse quelli più grandi. Si ritrovano poi a fare queste attività pomeridiane sulle quali gli psicologi non sempre concordano, sono troppe, sono troppo poche, troppo poco sport, troppa televisione, più tempo libero, ma comunque diciamo che fino ai 10 anni il tempo sono dei piccoli amministratori delegati. Questa non è una novità, non è una informazione nuova rispetto a quello che si diceva prima, ma in qualche modo fino ai 10 anni gestiti da questi genitori ludici, li chiama l'Istat, li ha chiamati anche la dottoressa Vegetti Finzi. Quindi nonni ludici, genitori ludici che trascorrono il loro fine settimana, la loro giornata di festa come oggi, a leggere storie ai figli, come in una percentuale elevatissima. Ecco, un dato per tutti: l'82% dei bambini italiani dai 3 ai 5 anni sente leggere le storie da mamma e papà. Ecco, Una forse gran qui fortuna, in queste statistiche dell'Istat, che sono fatte sulla base di sondaggi, quando una persona si sente chiedere: lei legge delle fiabe al figlio? È probabilmente portata a dire: beh sì, certo, lo faccio, anche se poi non lo No, fa. Qualche esattamente. Ecco, piccola bugia questo forse ci può essere. 80% di bambini che gode del racconto, della favola serale dalla mamma, ecco, si fa un po' fatica a Ecco, crederle. professoressa Vegetti Finzi, lei ci crede a questo Pensate che 80%? i libri per bambini sono l'unico settore in continua crescita e sono sempre più belli perché c'è una qualità, non solo crescono in quantità ma in qualità. E quindi c'è veramente una maggiore sensibilità nel confronto del racconto, della favola, della lettura, anche del chiedere al bambino di raccontare lui delle storie. Quindi su questo penso si sia fatta molta strada in avanti. E però, come diceva prima la dottoressa Barbiero, diceva i bambini sono sempre insieme ad altri bambini, sì, ma monitorati dagli adulti, quindi secondo modalità di relazione che sono gli adulti a decidere. Quello che io rimpiango è un rapporto tra bambini con tutta, diciamo, la libertà e la spontaneità che questo richiederebbe. Adesso addirittura, secondo me, c'è un rovesciamento. I genitori, gli insegnanti sono tutti ansiosi che i bambini socializzino, magari li mandano al nido prestissimo perché così socializza. Questa parola socializzare è una parola molto ambigua perché non tiene conto delle differenze di temperamento. Cioè ci sono anche i bambini che stanno bene da soli, che amano sognare, disegnare, restare proprio tra sé e sé, e quindi dovremmo avere appunto maggiore attenzione proprio per modulare la socializzazione e la solitudine, perché questo non è un danno, anzi è la fonte stessa della creatività. Ecco, forse la parola giusta è equilibrio in queste L'equilibrio, cose. Equilibrio, certo. Cercare di contemperare l'esigenza appunto dei bambini, che hanno per loro natura un'esuberanza di essere portati verso gli altri, ma anche hanno l'esigenza poi di riflettere, di cercare di giocare anche un po' da soli ogni tanto e quindi di ritrovare un po' un proprio mondo. Ecco, in questo forse ci sono dei rischi, ci sono dei rischi nella televisione, ci sono dei rischi anche in internet per i bambini più grandi. Lei nel suo libro, professoressa Veggetti Finzi, dà anche dei consigli, c'è cioè addirittura un decalogo per nonni di piccoli naviganti. Che, ecco, per riassumere un po', che consigli darebbe o dà ai nonni, anche per la sua esperienza diretta di nonna, per far affrontare i bambini, in fondo quelli che sono delle grandi opportunità, ma anche dei rischi della tecnologia moderna? Ma innanzitutto direi che tutti gli adulti dovrebbero diventare un po' competenti di questi nuovi mezzi di comunicazione. Anche i nonni non sono autorizzati a dire beh, i miei tempi non c'erano, ma il nonno anche lui può diventare competente sia attraverso dei corsi specifici, ma anche, la cosa è molto bella, apprendendo dal nipote. Cioè si rovesciano le posizioni, c'è tante volte il bambino che insegna e il nonno che impara, e questo crea tra di loro grande amicizia, solidarietà, una certa complicità. Poi non tenere mai il bambino da solo con il computer nella stanza chiuso, perché è meglio che il computer rimanga in soggiorno, in anticamera, in modo che il bambino senta che in qualsiasi momento un adulto può buttare un occhio sullo schermo e vedere cosa sta guardando. Inoltre devono essere messi in guardia anche dai cattivi incontri che si possono fare. Il ragazzino che naviga in rete è come un pesciolino, cioè può essere facilmente pescato. Quindi attenti, aperto gli occhi, e abbiamo visto che più i bambini diventano competenti e più i ragazzi diventano competenti nell'usare questi mezzi, e meno sono preda di incontri cattivi. Quindi bisogna proprio farne un oggetto di educazione e di scambio, non solo nella scuola ma anche in famiglia. Ecco, Francesca Barbiero, l'uso del computer, l'uso di internet comunque si rivela abbastanza forte, soprattutto dopo i 10 anni. Sì, sicuramente il computer e il cellulare sono i compagni di viaggio dei nostri figli dai 10 anni in poi. Ecco, fino ai 10 anni è un po' quello che ci dicevamo prima, fino a 10 anni i bambini sono bambini. E il gioco preferito, faccio una specie di salto all'indietro, il gioco preferito è il pallone per i maschi e le bambole per le femmine. Questo fino ai 10 anni. A 11 anni si scopre quello che in qualche modo già si conosceva, cioè il computer, perché in casa, perché a scuola, il cellulare, perché comunque ce l'hanno i genitori, ce l'hanno i nonni, ma lo si scopre a livello personale. Ecco, quindi un uso personale del computer, un uso personale del cellulare per tutta una serie di attività che sono tipiche del mondo preadolescenziale. Quindi il cellulare diventa uno strumento per comunicare anche fuori dalla telefonata, e quindi lo squilletto che ritroviamo, che noi adulti genitori non capiamo, che invece loro usano fare, e l'iperbole nell'uso, l'iperbolico uso degli SMS e la posta elettronica, o meglio, più che la posta elettronica, i sistemi di messaggeria con i quali comunicano, e che hanno una forte valenza eidetica, nel senso che non è più solo il messaggio scritto, è anche il messaggio visivo, visuale. Il punto esclamativo diventa iperbolico, enorme, è un modo di comunicare che a noi di precedenti generazioni è assolutamente sconosciuto. Ecco, signora Veggetti Finzi, ma il cellulare rischia rischia magari anche di essere un po' un alibi per tranquillizzare i genitori, dato che i figli possono essere raggiunti sempre, ecco, possono essere tentati anche di andare un po' fuori da ambiti normali, non so, andare in discoteca per i più adolescenti, frequentare anche delle amicizie che non si conoscono, e i genitori tanto hanno il cellulare, possono raggiungerli, e quindi c'è quasi un alibi a ridurre un po' l'attenzione. Può essere così? Ma naturalmente tutti gli strumenti sono ambivalenti, si possono usare bene o male, in modo giusto, in modo eccessivo. Io trovo che il mondo esterno è diventato così appunto pericoloso, che in fondo avere una possibilità di comunicazione mi sembra molto buona, ecco. Ci si può mettere d'accordo, ci telefoniamo l'ora tale, insomma, ci sentiamo quando è finito la tal cosa, quando esci dalla piscina, quando hai finito i compiti col tuo allievo, col tuo amico, quando la festicciola in discoteca è finita, quindi io credo che se si trovano, si contrattano un po' i contatti, in modo che non si chieda al figlio di essere a disposizione dei genitori totalmente in qualsiasi momento, ma si contrattano i momenti di incontro, equivalgono un po' a quell'occhiata dalla finestra che davano nelle generazioni precedenti ai ragazzi che si trovavano nella piazzetta, sotto casa, davanti alla chiesa. Quindi ecco, la nuova occhiata a che fare con l'ascolto e la parola. A me non sembra un male, io non mi sento di demonizzare il cellulare a partire appunto dai 10-11 anni. Ecco, tutti gli strumenti ovviamente possono essere usati nel bene e nel male. Francesca, volevo fare anch'io una domanda da madre, ecco. Lei non pensa che alla fine sia una spinta verso l'autonomia? Ma io non credo, io credo che se un genitore vuole appunto deresponsabilizzarsi, lo trova sempre il sistema. Io credo, tanto mica possiamo seguirli, cioè quanti ragazzi tornano a casa alla sera magari col buio dopo aver fatto il corso di danza, oppure di essere stati in piscina o andate a fare i compiti col compagno, non possiamo seguirli. Lei dice dovremmo lasciarli a se stessi, ma sappiamo benissimo che ci sono dei rischi molto forti per un, certo, ragazzino che torna a casa la sera da solo, soprattutto nelle grandi città. È chiaro che nei piccoli centri le cose sono diverse, ma penso a Milano, per esempio, dei ragazzini che escono alle 7 di sera dalla palestra e devono magari attraversare il quartiere per andare a casa. Secondo me l'idea che abbiano un cellulare sotto mano mi sembra rassicurante per tutti. Grazie signora, potremmo parlare a lungo di questi argomenti, certamente interessanti per i genitori come Francesca Barbiero, per i nonni come me. E io vorrei solo concludere ricordando come conclude il suo libro, ricordando che un compito dei nonni è anche quello di dare la memoria, di non far dimenticare i valori del passato, di far ricordare appunto anche questi valori e di trasmetterli alle generazioni future. Io ringrazio Silvia Vegetti Finzi e Francesca Barbiero di essere stati con noi, ringrazio gli ascoltatori, l'appuntamento con Dietro la Notizia per domani.